Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani, che oggi sono veramente tutti, hanno fatto tutti la stessa scelta, cioè di dedicare il titolo principale della prima pagina alle trattative in Europa, che, come avete sentito anche nel GR, sono sospese, sono in corso. Oggi sono attesi altri tavoli, altre discussioni, altri confronti, e vedremo se poi entro sera si arriverà a un accordo. Il Sole 24 Ore, per esempio, sceglie di titolare su quella che potrebbe essere una proposta che magari appunto è stata discussa nella notte: Europa, sussidi tagliati di 50 miliardi, freno ai fondi per chi non fa riforme. Il tema è sempre quello di legare questi fondi europei, che siano il Recovery Fund o il MES o magari anche il SURE, a comunque un impegno per le riforme. Questo tema delle condizionalità di vario tipo, di vario grado e di vario genere, che fin dall'inizio ha infuocato per l'appunto la trattativa, per esempio, sul MES. In prima pagina anche l'aggiornamento su quello che ieri era l'apertura del Sole 24 Ore, cioè il rilancio di Intesa San Paolo per l'OPS su UBI. Le prime reazioni dei vertici di UBI sono positive, e si potrebbe andare finalmente verso la finalizzazione di questa OPS, questa nascita di già Intesa San Paolo, il primo istituto bancario del paese, e diventerebbe naturalmente ancora più grande. Corriere della Sera, muro contro muro, ma si tratta, e qui vi segnalo l'intervento di Mario Monti, presidente in passato della Commissione Europea, commissario all'antitrust, ma anche naturalmente premier in Italia. Vi leggo le prime righe, ma è molto interessante, lo trovate poi a pagina 28 del Corriere. Dopo 2 giorni di duri negoziati al Consiglio Europeo, si possono già mettere in luce alcuni punti importanti per l'Europa e per l'Italia, indipendentemente dall'esito finale. 1. Decisioni lente o veloci? Mentre scrivo, non si sa ancora se domani, oggi per chi legge, sarà raggiunto l'accordo sul Recovery Fund. La trattativa in realtà è in corso a Bruxelles, e anche sul bilancio dell'Unione Europea 2021-2027, che viene messo a punto quando si insedia, quando c'è una nuova commissione, in questo caso naturalmente la commissione guidata da Ursula von der Leyen. O, scrive Mario Monti, se sarà necessaria un'altra riunione. Va comunque tenuto presente che la Commissione ha presentato le due proposte a fine maggio, meno di 2 mesi fa. Nelle precedenti edizioni, l'ultima del 2013, il negoziato sul solo bilancio settennale, il Recovery Fund legato alla pandemia è una novità, ha richiesto in media un paio d'anni tra la proposta della Commissione e l'adozione da parte del Consiglio e, non dimentichiamolo, del Parlamento europeo. Quindi un po' per appunto allontanarsi dagli slogan, perché è vero che siamo in un momento di emergenza, è vero che i tempi idealmente andrebbero accelerati, ma bisogna anche vedere come vengono fatti questi negoziati. Sono 27 paesi, 27 in generale opinioni diverse, e quindi appunto Mario Monti ci ricorda quanto possono essere complicati questi negoziati, e forse ci dice anche, dovesse essere un nulla di fatto alla fine di questa giornata e dovesse essere necessario un nuovo Consiglio Europeo, è già successo in passato, quindi bando appunto agli slogan che diano tutto per perduto. La fotonotizia è dedicata al rogo di Nantes, l'avete sentito anche nel GR, qui l'articolo di Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi del Corriere della Sera: triplo rogo colpita la cattedrale di Nantes. Il riferimento è al fatto che sono stati trovati 3 inneschi e che quindi si tratterebbe appunto di un incendio doloso. Anche l'Avvenire, come potete immaginare, mette in primo sceglie questa foto, la cattedrale di Nantes in fiamme. Incendio doloso a Nantes, distrutto l'organo, la pista dell'attentato. E qui il racconto, o meglio il commento, è affidato a Franco Cardini: il rogo della cattedrale, chi vuole solo cenere? ma il titolo principale è anche per Avvenire, dedicato al vertice di Bruxelles, piano inclinato dell'Unione Europea. E poi viene richiamata in prima pagina anche un'inchiesta molto interessante che trovate poi a pagina 12, Droga nella musica, i modelli di sballo. Dopo la tragedia di Terni, ricordate quei due ragazzini morti per aver preso un tipo particolare di metadone, testi e video controversi. La Repubblica sul filo del rasoio, anche qui naturalmente retroscena, commenti di ogni genere, però c'è anche un richiamo nell'apertura al cosiddetto tax day, cioè un giorno in cui bisogna pagare ci sono molte scadenze fiscali ed è domani, e il fatto che i commercialisti, come avete sentito, hanno detto siamo vicini allo sciopero, perché le ragioni sono comprensibili, se volete. Innanzitutto il solito ingorgo fiscale, questo per l'Italia non è una novità. In questo anno però, dopo 4 mesi di lockdown, diventa tutto più difficile, e soprattutto anticipare delle ratizzazioni di tassi in un momento in cui moltissime aziende, soprattutto partite IVA, non hanno avuto incassi, è naturalmente doppiamente problematico. In prima pagina richiamato anche un lungo articolo di Alberto Anile, che poi trovate a pagina 30, che ricorda Peter Sellers, il grande attore britannico scomparso 40 anni fa, e una delle rivelazioni in occasione di questo anniversario è che era innamorato pazzo di Sofia Loren, e c'è una bellissima foto di loro due insieme scattata nel 1960. Richiamato in prima pagina anche il long form, la lunga inchiesta della domenica di Repubblica, e questa settimana è tutta per Matteo Messina Denaro, i segreti di una latitanza. I consueti due editoriali della domenica, quello del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, a questa Italia manca un maramao, e invece quello del direttore di Repubblica Maurizio Molinari, l'Europa rischia un salto all'indietro. Con Repubblica, come ogni domenica, l'Espresso, il disegno è di Macox ed è una caricatura, diciamo un disegno di del premier Giuseppe Conte, stato di contingenza, vuole allungare l'emergenza per tutto l'anno, si intesta la partita autostrade, la trattativa con l'Europa. Così l'avvocato premier trasforma la fragilità del suo governo nello strumento per conservare il potere, mentre la politica rimane immobile. La Stampa, Conte alla guerra dei veti, accordo senza l'Olanda, questa è una delle possibilità. L'editoriale della domenica del direttore Massimo Giannini, controcanto alle sirene sovranista, deve esserci stato, non so se è sovranista perché è il controcanto sovranista alle sirene, insomma è una così un titolo un po', sembra che ci sia stato un refuso. E poi due foto, una scattata all'idroscalo di Milano, l'estate gonfia il virus e spaventa l'Italia, e l'altra invece è la foto del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, con tutte le polemiche di ieri, perché l'altro ieri, venerdì, avevamo dato conto delle perplessità, qualcosa di più di perplessità, dei sindacati della scuola, che dicevano in realtà, benché sarebbe in teoria auspicabile un ritorno a scuola, l'inizio del nuovo anno scolastico il 14 settembre ci sembra impossibile. Invece ieri la ministra Azzolina ha ripetuto no, è fattibile. Io ho sentito solo una cifra che mi spaventa, cioè l'idea che servano 3 milioni di nuovi banchi, 3 milioni, anche soltanto, non so se qualcuno li ha già prodotti o se pensa in meno di un mese, meno di due mesi, di produrre 3 milioni di banchi, però questa è la nuova Mission Impossible del commissario Arcuri. Già ricorderete, oltre che amministratore legato di Invitalia, con uno stipendio sul quale la Corte dei Conti ha avanzato dei dubbi, poi commissario straordinario per le emergenze, ricorderete il pasticcio delle mascherine, adesso commissario straordinario per la riapertura delle scuole, con questa appunto Mission Impossible di trovare 3 milioni di banchi per le scuole. Il Messaggero è l'unico giornale, io davvero non capisco perché, ma non importa, non sono direttore di niente, quindi che mette in prima pagina la scomparsa di John Lewis. È morto ieri a 80 anni, addio all'ultimo mito della lotta del razzismo, perché dico che non capisco? Perché questo signore, quando era ancora giovanissimo, ha partecipato ai grandi movimenti per la conquista di pari diritti degli afroamericani. Parliamo degli anni 50 e 60, quando in molti stati degli Stati Uniti c'era un vero e proprio apartheid. Rosa Parks fu quella donna coraggiosissima che osò sedere su un autobus in un posto tecnicamente per legge riservato ai bianchi, e lei si sedette. Poi ci fu la protesta di quel ponte attraversato, lo ricorderete. Insomma, dopo Martin Luther King e Malcolm X è veramente il simbolo del tentativo che dura dagli anni appunto 50 e 60 di dare agli afroamericani pari diritti, cosa che fu garantita solo nel 1965 da una legge dell'allora presidente Lyndon Johnson, il successore di John Fitzgerald Kennedy, assassinato a Dallas nel 63. Insomma, abbiamo riempito i giornali di pagine, pagine, pagine di cronaca sul movimento Black Lives Matter, e poi non mettiamo in prima pagina la morte di questo signore, un signore al quale Barack Obama, quando fu eletto la prima volta, mandò un biglietto dicendo grazie, perché se questo è stato possibile è grazie a te, cioè se un afroamericano è diventato presidente è grazie a te. Detto questo, unico quotidiano, appunto Il Messaggero, che mette in prima pagina questa notizia, poi dedica la pagina intera, la pagina 21, la copertina di macro, al ritratto firmato da Gabriele Santoro di John Lewis, ultimo cavaliere della lotta al razzismo. Tra l'altro era stato anche poi eletto al Congresso ed è stato membro del Congresso americano fino all'ultimo, fino appunto al giorno della morte. Il Messaggero titola sulla questione delle tasse: partite IVA, la rata sarà mensile, una proposta dell'Agenzia delle Entrate per semplificare gli adempimenti a carico di professionisti e piccole imprese, per appunto il fatto che non è stato rinviato il Tax Day, e con la protesta dei commercialisti che minacciano lo sciopero fiscale. Poi un richiamo alle trattative, aiuti dell'Unione Europea, scontro aperto sui controlli, Conte sfida Rutte, il primo ministro olandese, sul fisco. Perché sapete che c'è il tema, molti chiamano l'Olanda un paradiso fiscale, non è un paradiso fiscale, i paradisi fiscali sono altri, però è vero che spostano il loro quartier generale molte multinazionali, ma anche aziende italiane, perché c'è un regime fiscale molto favorevole. Ripeto, non è un paradiso fiscale, si tratta però di elusione fiscale. Paradiso fiscale vuol dire violazione delle leggi, chi fa elusione fiscale non viola le leggi, ma sicuramente le aggira. Quindi c'è una differenza, però tant'è, appunto qui torniamo sul tema che in Europa, l'abbiamo detto anche ieri, nell'Unione Europea non c'è armonia tra i regimi fiscali. Ultimissima segnalazione prima della pausa, e dove sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo, la foto anche qui è quella di Nantes, brucia la cattedrale, è dolo. Ora ci fermiamo un attimo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Ci mancavano ancora alcune prime pagine, vi cito quella del Secolo XIX, il quotidiano di Genova, perché in questo momento in Italia sulla questione Covid c'è questo focolaio, il focolaio che preoccupa di più è quello di Savona, e quindi il Secolo XIX titola: Savona, 1000 in isolamento, si cerca il paziente zero. Il Giorno titola sulla questione del Tax Day, il giorno delle tasse, con una sorta di rivolta fiscale: nonostante la crisi post-Covid, nessun rinvio delle scadenze, si paga da domani. Commercialisti pronti a scioperare, il morbo rialza la testa in Europa. Qui il riferimento è in Italia, abbiamo detto la situazione più preoccupante è a Savona, in Europa invece in Spagna e soprattutto in Catalogna, e tanto che la Francia ha deciso di chiudere, l'annuncio è stato dato dal nuovo primo ministro molto interventista, ha deciso di chiudere, di richiudere le frontiere che erano state riaperte da meno di un mese, solo con la Spagna, le frontiere della Francia con la Spagna. Fatto Quotidiano: il nano Olanda tiene in ostaggio il gigante Europa. Ieri il Fatto Quotidiano, lo ricorderete, titolava sulla questione della Lega, oggi c'è una un titolo, un riferimento in prima pagina, poi vedremo, faremo anche oggi il confronto su come diversi giornali trattano questa questione. Lega, i sei uomini d'oro e quello che canta coi PM. Il tema della Lombardia Film Commission, di una compravendita sospetta dell'intermediario che è stato fermato con 5.000 euro in tasca e pronto a fuggire in Brasile. Ieri è stato interrogato e ci sono già alcune indiscrezioni su quello che avrebbe detto al GIP e al PM. Il manifesto senza freni, e la foto è quella di Ursula von der Leyen al centro, tutti con la mascherina, Conte e Angela Merkel alla sua destra e alla sua sinistra, poi c'è il Premier Rutte, il Presidente del Consiglio Europeo Michel e Macron. Un titolo in prima pagina però, e con questa enfasi lo trovate solo sul manifesto, questa notizia è ieri ed è una notizia ufficiale, perché l'ha data la guida del paese Rouhani, presidente dell'Iran Rouhani, che ha detto in Iran ci sono 25 milioni di contagiati, una cifra davvero record. Poi il tema naturalmente è se il sistema sanitario locale può reggere una quantità di contagiati simile. La Verità, Conte nel sacco, Italia beffata. La foto di copertina però è del ministro dell'istruzione Lucia Azzollina, che dice, scrive La Verità, l'ultima dell'Azzolina in cattedra senza laurea, poi dice che la contestano solo perché è donna. E poi due articoli legati all'approvazione alla discussione in corso sulla proposta di legge del deputato del Partito Democratico Zan su una legge contro l'omotransfobia. Marchiato su Google chi critica gay e trans, un'estensione gratuita del motore di ricerca, spiega Francesco Borgonovo, colora di rosso i nomi di ogni persona ritenuta omofoba. Ci sono tutti i giornalisti della Verità. Che sorpresa, dico, aggiungo io naturalmente, politici di destra ma pure femministe, una schedatura arbitraria e pericolosa. E poi Marcello Veneziani, invece questo poi l'articolo tratto a pagina 5, se passa la legge Zan la democrazia e il diritto sono in pericolo. Il Giornale, follia del governo, due punti, i ristoranti chiudano. Questo è il riferimento a una frase sicuramente infelice, ma non erano esattamente queste le parole del vice ministro all'economia Laura Castelli, che ieri ha parlato delle difficoltà del settore, enormi insieme a quelle del turismo, forse le più grandi, del settore della ristorazione, dell'hotellerie, e ha detto pochi clienti trovino un altro lavoro. In realtà anche qui ha detto una frase più complessa, però purtroppo può anche essere abbreviata e interpretata così, e tanto che poi lo stesso vice ministro Castelli ha precisato con un post su Facebook. Bufera sull'Azzolina, l'editoriale di Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, non conta l'età ma l'incapacità. Libero si dedica proprio a queste due donne, da una parte Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione, e dall'altra Laura Castelli, vice ministro dello sviluppo economico. Sull'Azzolina parla Daniela Santanchè, esponente di Fratelli d'Italia, che dice l'Azzolina viene criticata non perché è donna, è inetta. Parla l'imprenditrice che, guardi, non voglio dire niente. Comunque, Daniela Santanchè, che appunto critica Lucia Azzolina. E dall'altra, naturalmente, l'intervista è di un uomo, Gianluca Veneziani, e poi un altro uomo, Fausto Carioti, racconta l'uscita del viceministro Laura Castelli. Tra l'altro le foto scelte non sono state scelte a caso, quella di Daniela Santanchè in una posa fascinosa, quasi da diva hollywoodiana, e Laura Castelli invece una foto che la ritrae con una smorfia non proprio, che non le rende giustizia, diciamo così. L'uscita della Castelli fa infuriare tutti, Deona, Movimento 5 Stelle, per i ristoratori, chi è in crisi cambi lavoro. L'apertura vera e propria però è: l'Europa detesta Conte, l'Unione non si fida del nostro governo. Bruxelles teme che l'Italia sprecherà gli aiuti e vuole decidere come dobbiamo spendere i soldi che ci presta. Giuseppe costretto ad ammettere che i suoi colleghi non gli credono. Andiamo alle pagine interne, vi dicevo sul Sole 24 Ore l'aggiornamento con un articolo firmato da Marco Ferrando, che è il responsabile delle pagine di finanza del Sole 24 Ore, il rilancio di Intesa al CDA UBI, in arrivo un'altra bocciatura. Ecco, vediamo se appunto, perché ci sono anche in realtà per esempio l'intervista sempre di Marco Ferrando al presidente di Fondazione CR Cuneo, che è uno degli azionisti di UBI, Gian Domenico Genta, che dice: create le premesse per il sì di tutti. Quindi vedremo appunto. Poi vi segnalo un bel approfondimento richiamato anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore di Alberto Magnani su questa guerra del Nilo tra Egitto e Etiopia. Viene chiamata la diga della rinascita, la diga sul Nilo, aumenta il livello dell'acqua nel bacino della grande Ethiopian Renaissance Dam, il Cairo e il Sudan accusano Addis Abeba, capitale appunto dell'Etiopia, quindi accusano l'Etiopia, che così potenzierà la capacità di produzione elettrica, di averlo deciso senza consultarli. Poi un altro approfondimento della domenica curato da Enrico Netti, la crisi dei parchi di divertimento. Questa settimana che sta per finire ha aperto Disneyland Parigi, uno dei più importanti, dei più grandi parchi divertimento d'Europa, e anche lì la crisi si fa sentire perché le norme antivirus, lo spiega bene Enrico Netti per quanto riguarda i parchi italiani, e ci sono gli approfondimenti su Gardaland, Mirabilandia e l'Acquario di Genova, le norme antivirus abbattono i ricavi di oltre il 65%, quindi ricavi azzerati per tutti i mesi di chiusura e ora più che dimezzati per le norme. La pagina dedicata a sport e business, Mario Nicoliello si focalizza sul MotoGP, Dorna ridisegna il mondiale spagnolo. Al via oggi dal circuito andaluso di Jerez de la Frontera, la rassegna iridata delle due ruote riprogrammata. Al momento nel vecchio continente con 7 prove su 13 in Spagna, 2 in Italia a Misano il 13 e il 20 settembre. La sezione lifestyle della domenica è una apertura di Giovanna Mancini che ci racconta, da esperta di design qual è, anche di economia del design, tra audace ed equilibrio il colore torna nelle case. Dopo anni di minimalismo anche cromatico, i brand ampliano la loro palette e lasciano alle spalle il grigio del lockdown. La seconda pagina invece a cura di Federico De Cesare Viola, cinema da gustare quando gli attori sono cibo e intimità della tavola. Le ricette emotive dei film, come il piatto di verdure della memoria in Ratatouille e la tentazione della Charlotte russa in C'era una volta in America, l'equilibrio del Mont Blanc di Moretti fino al rito terapeutico della convivialità di Ozpetek, dei molti film di Ferzan Ozpetek, la cucina, la convivialità appunto ha spesso un ruolo centrale. I numeri dell'Iran li trovate anche sul Corriere della Sera, pagina 9, Iran numeri shock fino a 25 milioni di casi. E sempre sul Corriere della Sera ancora un approfondimento sulla scuola, in questo caso un'intervista al sindaco di Firenze Dario Nardella di Claudio Bozza, la trovate a pagina 21. La scuola prima emergenza, le aziende e il paese ripartono se i ragazzi tornano in classe. Questa è l'opinione appunto del sindaco di Firenze. E poi, a proposito di Firenze, io ieri ho sorvolato su questa inutile per quanto mi riguarda polemica, c'era un lunghissimo articolo di Tommaso Montanari sul Fatto Quotidiano che naturalmente criticava Chiara Ferragni per aver promosso gli Uffizi di Firenze anche scattando molte foto all'interno, quasi un servizio di moda. Oggi La Repubblica, Gaia Rau, intervista Heike Schmidt, che è direttore degli Uffizi dal 2015, ha fatto un lavoro eccezionale, che dice: su Ferragni troppo snobismo, dobbiamo avvicinare i ragazzi alla cultura. Io vorrei veramente un'argomentazione seria che mi spiegasse perché Chiara Ferragni ha decine di milioni di follower, molti tra l'altro giovanissimi, sui suoi account social, se anche soltanto 10 andassero ai musei agli Uffizi di Firenze senza averci mai fatto un pensiero prima, dove sarebbe lo scandalo? Lo storico dell'arte, dopo la polemica per la visita dell'influencer, noi non puntiamo ai soldi ma a portare i giovani nel nostro museo. E ora una pausa, sentiamo gli aggiornamenti sulla viabilità. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica, grazie a tutti gli ascoltatori per l'ascolto, prima di tutto anche a chi sta mandando messaggi, WhatsApp o SMS al 349-238-6666. Ci sono molte critiche per i miei commenti, ma insomma un po' mi conoscete, nessuno vi impone di seguire questa rassegna stampa. I giornali, per leggere semplicemente i titoli basterebbe un computer, lo dico sempre, se si affida alla rassegna stampa, che è per forza di cose anche selettiva e dipende anche un po' dal punto di vista di chi appunto legge questi titoli e li sceglie, perché pensate quanto sarebbe noioso se io semplicemente leggessi tutti i titoli sommari e occhielli degli articoli. Comunque insomma, grazie lo stesso a tutti gli ascoltatori così attenti alle mie parole. Dalle pagine interne dei quotidiani, prima di passare ai supplementi domenicali, vi segnalo anche la vicenda a proposito di Covid del virologo Andrea Crisanti, che è stato fin dall'inizio è stato chiamato dal governatore del Veneto Luca Zaia come esperto nel comitato scientifico della regione. Ora Crisanti, verso l'addio, dice Mauro Evangelisti sul Messaggero a pagina 8, perché questo è un virgolettato del virologo, è stato tradito un modello, cioè non si fanno più i tamponi sul territorio, gli ospedali si riempiono, mi chiamo fuori. E a proposito di salute, che in questo momento vuol dire soprattutto emergenza Covid, anche se poi sappiamo che uno degli effetti collaterali del lockdown e dell'emergenza Covid è stata che tutti i malati cronici che avevano nei mesi del lockdown avevano necessità di controlli, di visite, queste spesso sono slittate, quindi in tutti i paesi, non solo in Italia, ci si attende appunto tutta un'onda lunga di effetti per quelle persone che non hanno potuto seguire i loro controlli sanitari per via dell'emergenza Covid. E quindi l'intervista a Roberto Speranza: sanità, più risorse al sud, il MES ora è un'occasione, il virus non è stato sconfitto, guardia alta, e sulla proroga dello stato di emergenza, dice, decideranno le Camere. Ma passiamo ai supplementi della domenica, cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, e questa settimana proprio lo ritaglierò e lo incollerò sulla mia agenda. Si intitola Felicità e la citazione è del grandissimo scrittore francese Albert Camus. E la citazione è questa: che cos'è la felicità se non il sincero accordo tra un uomo e la vita che conduce? Scrive Ravasi: quante volte nel nostro ormai voluminoso breviario abbiamo intestato molte pagine con la parola felicità, o con la folla dei suoi sinonimi, in verità non del tutto coincidenti, come gioia, allegria, godimento, piacere e così via. Ebbene, nella frase che ho desunto da uno dei racconti della caduta del grande Albert Camus, c'è un nuovo e inatteso sinonimo da aggiungere: la coerenza. Quando la tua coscienza ti testimonia che hai vissuto bene, facendo fiorire i tuoi talenti, donandoti agli altri, amandoli come ami te stesso, allora si sente salire dal cuore quell'esperienza quasi divina che è la felicità autentica. La coerenza è quindi la sorgente della serenità profonda dello spirito, anche quando fuori si agita il vento della prova e della fatica. Gandhi riformulava questo principio al negativo: credere in qualcosa e non viverlo è disonestà, ed essere coerenti non è basato su un atto singolo, ma su una costanza di scelte, talora anche ardue. Ed è proprio per questo che bisogna sempre vivere come si pensa, per non finire a pensare come si è vissuto, in una falsa e ipocrita coerenza. Sono riuscita a non impappinarmi, quindi vuol dire forse che appunto ero davvero concentrata e presa da queste parole. La copertina vera e propria però è un articolo di Andrea Carandini che racconta Memoria dal sottosuolo del Foro e del Palatino, diario di scavo, 30 anni di lavoro nel sito archeologico di Roma, in un'area vasta un ettaro, hanno portato alla ricostruzione della secolare stratificazione degli edifici, scendendo fino alle origini di Roma. E poi vi segnalo una lunga recensione di Adriana Castagnoli a due libri sulla Cina. Uno si intitola Sotto cieli rossi, diario di una millennial cinese, l'ha scritto Caroline Kahn, pubblicato da Bollati Boringhieri, e l'altro Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina, di Simone Pieranni, pubblicato dalla Terza. Doppio sguardo sulla Cina. Caroline Kahn racconta la lotta per emanciparsi da una condizione di invisibilità. Simone Pieranni sottolinea la sinizzazione del lavoro nel cuore dell'Unione Europea. Siccome, come sappiamo, la Cina è sicuramente la superpotenza del momento e sappiamo quante tensioni ci sono con gli Stati Uniti, quindi cercare di capire davvero questo grande paese, che però non è una democrazia, credo sia interessante. E poi vi segnalo di Antonio Perazzi un articolo sempre sulla Domenica del Sole 24 Ore, Nel giardino dell'anarchia, tra l'altro illustrato da un quadro bellissimo di Henri Rousseau, Il sogno, che potete vedere quando visitate il MoMA di New York. Le piante che crescono meglio sono quelle che hanno una vocazione cosmopolita, se ne fregano della geografia politica e si spostano in cerca di ambienti propizi. La lettura del Corriere della Sera, in edicola ogni domenica, è affidata, sapete come ogni settimana affida la copertina a un artista, questa settimana è Banksy, questo artista a volte considerato ancora da molti misterioso, perché non si conosce, è riuscito finora a nascondere il suo volto. La sua specialità sono i graffiti nelle città. Poi le prime sei pagine della lettura sono un lungo articolo di Alessandro Piperno intitolato I gemelli del romanzo ed è interamente dedicato a Marcel Proust e Virginia Woolf. Riconoscono la bellezza ma non sono certi di saperla creare, perciò indugiano, soffrono, maledicono e si somigliano tanto, tantissimo, innamorati delle lettere del passato, hanno cambiato la letteratura del futuro. E un altro approfondimento, perché sapete che ormai è un po' questa la, giustamente perché è un supplemento la domenica, dovremmo avere più tempo per leggere, per goderci gli approfondimenti. Anna Chiara Sacchi, alle pagine 14 e 15, ha fatto un lungo colloquio con la sociologa Eva Illuz, che ha intitolato un libro La fine dell'amore, le nuove incertezze del cuore, la diffusione spasmodica delle tecnologie digitali e una certa deriva del capitalismo fanno male alla stabilità delle relazioni sentimentali. Ne è talmente convinta la sociologa che ha intitolato un libro La fine dell'amore. Qui spiega perché e racconta sei storie, letterarie o reali, finite male. Vi segnalo solo in questi pochi secondi che restano la copertina di Robinson, il supplemento della Repubblica che è in edicola ogni sabato ma poi resta in edicola tutta la settimana, e qui invece sono due lunghe interviste, una di Luca Valtorta a Vasco Rossi e l'altra di Antonio Gnoli a Gianna Nannini. Vasco e Gianna, la nostra estate senza musica. Un grazie a Peter Bescapè in regia e ancora una buona domenica a tutti voi da Giulia Crivelli. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.